rimpianti non ne ho. Ho tanti ricordi, ma rimpianti non ne ho. Ho finito anche i sogni che avevo nel cassetto. E canzoni, ma di amici non ne ho. Mi è rimasta un'amica che quando arriva se ne va. Ricordi di canzoni che non lasciano più il segno, gli anni che volano cancellano. Solo debiti, ma rimpianti non ne ho. È svanita anche la voglia di vivere. La mia anima è qua.